maxi operazione contro i secessionisti. Progettavano la costruzione di un carro armato per un'azione a Venezia, come i Serenissimi nel 97, indagato un leader dei Falcone. E arriva la reazione della Lega. Matteo Salvini dice che è una follia. Se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno, sbaglia, e annuncia una manifestazione di solidarietà per domenica. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem: nessun rinvio sul rispetto ai vincoli di bilancio. L'Italia ha un alto debito, faccia le riforme. Padoan: gli 80 euro in busta paga arriveranno presto. E il ministro annuncia anche che le pensioni non si toccano. Nel giorno nel quale l'Istat diffonde i dati, sono 7 milioni quelle sotto i 1000 euro, un quarto dei pensionati ha due o più trattamenti previdenziali. 'Ndrangheta nel Lecchese, in manette un consigliere comunale di un paese della provincia che al telefono diceva: sono uno dei nuovi uomini dei Trovato. Violento terremoto in Cile, sono almeno 5 le vittime, un piccolo tsunami ha investito le coste da dove la popolazione era stata fatta evacuare. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, che se volete, come sempre, potete commentare al 349-238-6666. Potete anche scrivermi su Twitter, se volete, oppure mandare un'email, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo, come da titoli, con la maxi operazione contro i secessionisti veneti. Si proponevano l'indipendenza dallo Stato italiano con il ricorso ad azioni violente e all'insurrezione popolare. Sono i componenti del gruppo secessionista Alleanza, sgominato dall'operazione dei carabinieri del ROS coordinata dalla Procura di Brescia. 24 le persone arrestate, 51 quelle complessivamente indagate in quasi tutte le province venete. A finire in manette anche l'ex parlamentare fondatore della Liga Veneta Franco Rocchetta, tra i promotori del recente referendum per la secessione del Veneto, e i due ex Serenissimi che nel 1997 assaltarono il campanile di San Marco a Venezia, Luigi Faccia e Flavio Contin. Una storia che si ripete: gli arrestati progettavano un'azione simile con il coinvolgimento però di centinaia di persone e avevano messo a punto un analogo carro armato rudimentale, un trattore trasformato in mezzo corazzato con un cannoncino da 12 mm. È finito tra le armi sequestrate insieme a 3 pistole e 14 fucili. Contestati reati di terrorismo ed eversione del sistema democratico e fabbricazione e detenzione di armi da guerra. Il gruppo, fondato nel maggio del 2012, riuniva esponenti di Brescia Patria e del movimento separatista Veneto Stato. Tra gli indagati figura anche uno dei leader dei Forconi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La base operativa del gruppo sarebbe Casale di Scodosia, nel Padovano, dove è stato trovato il trattore trasformato in mezzo corazzato. Una storia che si ripete, frutto del malessere, un allarme da non sottovalutare, le parole dell'ex sindaco di Casale, Renato Modenese. Lo ha intervistato sempre Maria Luisa Pezzali. Quel tank che era stato costruito negli anni 90 venne costruito proprio in un capannone di Casale di Scodosia. Che adesso ci sia nuovamente questo nuovo fenomeno, questo nuovo episodio, è la dimostrazione che purtroppo c'è un forte malessere nel territorio, nella nostra comunità, un malessere legato a un'economia nazionale, ma soprattutto anche un malessere legato a un'economia locale che ha visto il nostro comune passare dal terzo comune della provincia di Padova a livello di produzione interno lordo e di redditività, è sceso al terzultimo posto. Aveva avuto la percezione che queste spinte secessioniste degenerassero in fenomeni preoccupanti di questo tipo? Assolutamente no. Non c'era niente che potesse far pensare che potesse succedere un'altra volta quello che è successo purtroppo negli anni 90. E fra l'altro sembrerebbe che questo pseudo punk fosse stato costruito in un capannone che risultava chiuso da tanto tempo. Cosa crede che diranno i suoi concittadini? Insomma, oggi non si parlerà d'altro? Immagino di sì, però io credo che sia comunque il frutto di un qualche cosa che chi sta al governo, chi sta in ruoli importanti, deve assolutamente capire. Non è un caso che nel Veneto comunque ci sia stato quel referendum, che siano i 2 milioni o siano i 300.000, non lo so quanti avranno votato per la secessione del Veneto, però è un fenomeno che non può essere più sottovalutato. E di certo, a quanto pare, non lo sottovaluta la Lega. Dichiarazioni molto dure di Matteo Salvini, il leader leghista, che sicuramente faranno discutere. Andrea Viali, quali sono? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, lo dicevi, stanno arrivando le prime reazioni politiche, c'è da dire che al momento sono tutte molto critiche nei confronti di questi arresti, di questa operazione della ROS. Duro, lo dicevi, l'intervento del leghista Salvini, aiutano i clandestini cancellando il reato di clandestinità, liberano migliaia di delinquenti con lo svuota carceri e arrestano chi vuole l'indipendenza. Siamo alla follia, se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno sbaglia, ha scritto su Facebook stamattina il segretario federale del Carroccio, ma solidarietà agli arrestati arriva anche da Gianluca Busato, che è il leader di plebiscito.eu, il movimento, lo ricordiamo, promotore del referendum sull'indipendenza del Veneto, movimento che per stasera ha chiamato a raccolta i suoi militanti in Piazza San Marco, proprio in Piazza San Marco a Venezia, ma contro gli arresti anche la Lega Nord ha organizzato una manifestazione che si svolgerà invece domenica pomeriggio a Verona. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali, poi torneremo a parlarne più tardi anche di questa vicenda. Intanto, a proposito di maxi inchieste, c'è quella della Guardia di Finanza di Milano che ha arrestato 10 persone nel Lecchese. È un'inchiesta della DDA milanese contro la 'ndrangheta in Lombardia. Nell'operazione sono stati arrestati Mario Coco Trovato, fratello di Franco Coco Trovato, già in carcere per un ergastolo, e poi il sindaco di Val Madrera, centro del Lecchese, il consigliere comunale Enrico Palermo. Ernesto Palermo, che si definiva al telefono uno dei nuovi uomini dei Trovato. Torneremo a parlarne più avanti di tutto questo con il sindaco di Lecco. Intanto passiamo in Europa, passiamo o meglio ad Atene, dove si è svolto Eurogruppo ed Ecofin e hanno parlato sia il presidente dell'Eurogruppo sia il nostro ministro Padoan. Per un punto ci colleghiamo con Dino Pesoli, inviato del Sole 24 Ore. Dino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, le dichiarazioni dei due come sono state? Ma da un certo punto di vista si possono leggere come, come dire, ognuno fa il suo mestiere, perché il ministro dell'economia Padoan alle prese con la difficile quadratura di un documento di economia e finanza che il governo sta per predisporre, ma soprattutto con il finanziamento, le coperture per i 6,6 miliardi sull'IRPEF è piuttosto prudente, non vede Padoan particolari assi all'orizzonte con la Francia, come dire, per allentare un po' la disciplina di bilancio. In realtà un qualche segnale in questa direzione c'è stato tra ieri e oggi stesso. E dal punto di vista invece dell'Europa, il presidente dell'Eurogruppo ribadisce che invece gli impegni vanno mantenuti. Ma credo che si tratti sostanzialmente di una dialettica che si lascia formalmente le cose come stanno, ma probabilmente apre la strada a qualche trattativa che però potrà maturare, a mio avviso, non prima dell'autunno, quando la Commissione europea verrà rinnovata, quando ci sarà peraltro a presiedere l'Unione europea proprio l'Italia, e dunque in quella sede forse si potrà far valere riforme strutturali alla mano. È la richiesta di maggiore flessibilità, quindi si sta istruendo un'istruttoria, come dire, senza che però questa possa andare in porto in tempi rapidi. Grazie a Dino Pesole tanto per l'aggiornamento quanto per l'analisi. Si parlava di asse con la Francia che oggi dà il via libera al suo nuovo governo. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, eccoci, com'è composto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma diciamo che il presidente Hollande aveva parlato nel suo intervento televisivo di lunedì sera di una squadra più compatta di combattimento, e la prima impressione che si ha è che in effetti si tratti di questo, cioè c'è una diminuzione del numero dei ministri e c'è con due ingressi, quello di Ségolène Royal e quello di un fedelissimo di Hollande al lavoro. Ma soprattutto c'è un riorientamento interno del governo intorno ad alcune figure chiave, una in particolare è quella di Arnaud Montebourg, che diventa ministro dell'economia, il fautore del patriottismo economico, il difensore dell'industria francese, eurocritico direi più che euroscettico, e con però l'attribuzione delle finanze, dei conti pubblici a Michel Sapin, che invece è un ortodosso, diciamo quindi un governo fatto di professionisti, molto attento alla percezione da parte dell'opinione pubblica francese di un governo che difenda la sovranità del paese in qualche modo, però con una certa attenzione a equilibrare la situazione con la scelta di un ministro più ortodosso, che dovrebbe essere la vera interfaccia di Bruxelles sui conti pubblici. Certo non sarà una relazione facile quella futura tra Parigi e Bruxelles. Ricordiamo che lo stesso Premier Valls era stato a suo tempo un difensore del no alla Costituzione europea nel referendum del 2005, così come il nuovo ministro dell'economia Montebourg. Quindi insomma con una Francia che si trova a dover difendere un peggioramento dei suoi conti pubblici con un deficit al 4,3% e un debito che sfiora ormai i 2.000 miliardi, sarà una partita difficile, diciamo, quella tra la Francia e la Commissione europea. Grazie a Marco Mussanè, anche qua, tanto per l'aggiornamento quanto per l'analisi. E intanto Confindustria presenta una sorta di manifesto per le elezioni europee. Proprio oggi c'è Vincenzo Miglietta a seguire questa presentazione, il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, è un documento programmatico, Simone, quello che Confindustria offre oggi al dibattito politico e alle altre parti sociali in vista non solo delle elezioni europee di maggio, ma anche dell'insediamento della nuova Commissione europea in autunno, in concomitanza poi con il semestre di presidenza italiana. Per gli industriali siamo ancora di fatto in un'Europa incompiuta, con risposte tardive e inadeguate alla crisi che hanno alimentato la delusione e un euroscetticismo diffuso. Ma allora da dove ripartire? Dagli elementi di forza, spiega Viale dell'Astronomia. Tra questi sicuramente c'è l'euro, che ha portato una grande stabilità dei prezzi e ha agevolato il commercio accentuando concorrenza ed efficienza. Da qui le 10 priorità secondo Confindustria per il prossimo ciclo istituzionale. Si parte allora dal fiscal compact, da applicare con giudizio per evitare di rimettere in moto spinte centrifughe, dice il presidente di Confindustria Squinzi. Sentiamo questo passaggio. L'Europa deve piacerci, non pensiamo un'Europa che deve essere sicuramente più snella, più compatta, con un'industria forte e competitiva che sia capace di far sentire la sua voce, la sua leadership, il suo peso. Ecco, quindi con la nuova legislatura evidentemente noi dobbiamo puntare a un'Europa che non sia più un'Europa di solo esclusivo rigore, ma un'Europa che punti anche tantissimo verso la crescita. Andare oltre il dogma dell'austerità per favorire la crescita, dice Squinzi, soprattutto di fronte a dati sulla disoccupazione che colpisce in particolare i giovani, che preoccupano in modo fondamentale quanto alle elezioni europee. Infine, i candidati siano all'altezza del ruolo, auspica Squinzi. E da Roma è tutto. Come si diceva, oggi il ministro dell'economia ha parlato anche di pensioni, ha detto che non si toccano. Proprio oggi sono stati diffusi dei dati. Sono 7 milioni e sono soprattutto donne pensionati sotto i 1.000 euro in Italia, 7 milioni contro 11.000 che percepiscono invece assegni sopra i 10.000, 7 milioni che rappresentano ben il 42% del totale, quindi 4 pensionati su 10. Di questi 4, ben 3 sono sotto i 500 euro. Dall'altra parte, come si diceva, le cosiddette pensioni d'oro. I fortunati rappresentano solo lo 0,1% del totale, mentre a superare i 5.000 euro al mese è il 3%. Nonostante ciò, l'Istat rende noto che la spesa pensionistica in Italia cresce. Nel 2012 è stata di 270,7 miliardi di euro, con un incremento dell'1,8% sull'anno precedente, mentre la sua incidenza sul PIL è aumentata di 0,4 punti percentuali. Ogni pensionato in media ha percepito nel 2012 358 euro in più del 2011. Quanto a tipologie di trattamenti, la stragrande maggioranza della spesa complessiva è stata assorbita dalle pensioni di vecchiaia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito del ministro dell'economia, fatemi rispondere ai tanti ascoltatori che ogni volta ci scrivono: si pronuncia Padoan? No, lui stesso lo pronuncia Padoan e ce lo ha confermato su Twitter qualche giorno fa il suo portavoce. Quindi chiudiamola qua, è Padoan e il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E subito una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva dal Cairo, dove c'è stata una nuova esplosione, la terza davanti all'università. Oggi una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. La vittima era un generale di brigata di polizia. C'è anche un ex parlamentare fondatore della Lega Veneta tra i 24 arrestati in una maxi operazione contro i secessionisti veneti. La reazione della Lega: Salvini annuncia una manifestazione di solidarietà domenica, dice se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno sbaglia. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem dice nessun rinvio sul rispetto dei vincoli di bilancio. L'Italia ha un alto debito, faccia le riforme. E Padoan assicura gli 80 euro in busta paga arriveranno presto. 'Ndrangheta nel lecchese, in manette un consigliere comunale di un paese della provincia che al telefono diceva: sono uno dei nuovi uomini dei Trovato. Saluto Nunzia De Girolamo, capogruppo del nuovo centrodestra alla Camera, buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci Allora, con lei parleremo anche di politica, ma prima di tutto la volevo interpellare su un tema del quale si sta interessando insieme ad altri suoi colleghi, ed è quello del divorzio breve. Oggi dovrebbe approdare, da quel che ho capito, in commissione un testo comune che siete riusciti a mettere insieme tra voi, il PD, Forza Italia, pur con sensibilità diverse, o mi sbaglio? Sì, obiettivamente ci sono diverse proposte di legge sulla riduzione che riguarda lo scioglimento del matrimonio, della comunione fra coniugi, riduzione dei tempi, tenendo presente di come è cambiato il paese e anche il rapporto di coppia, in modo da evitare, privilegiando ovviamente sempre la famiglia come nucleo fondamentale, però evitare le lungaggini per una separazione che poi logorano ancora di più i rapporti familiari, diciamo così. Si sta tentando di trovare un'unità sui tempi, perché ci sono diverse proposte. Noi avevamo fatto una proposta che riguardava un anno nel caso in cui non ci fossero figli minori, 3 anni nel caso che la coppia avesse figli minori di età, e altri gruppi invece hanno fatto proposte un po' più estreme, 9 mesi, 12 mesi. Ora si sta tentando un unico testo con una trattativa ovviamente che ci sarà in queste ore per arrivare a una proposta comune che unifichi i vari disegni di legge. Questo per quanto riguarda il divorzio breve. Vedremo come procederà in Parlamento. Molti ascoltatori ci scriveranno: non è una priorità, per alcune persone invece è una cosa importante, un pezzo del paese del quale vogliamo tenere conto. Invece De Girolamo, le vorrei fare una domanda su queste dichiarazioni del segretario della Lega Nord. Avrà visto e avrà sentito dell'operazione che c'è stata questa mattina, 24 arrestati, c'è anche un ex parlamentare, il fondatore della Lega Veneta, indagato un leader dei Forconi, preparavano una sorta di carro armato. Poi se è lo stesso dei Serenissimi, insomma, stiamo parlando di poca roba, però insomma, evidentemente c'era preoccupazione da questo punto di vista. Salvini dice: è una follia, se lo Stato pensa di fare paura a qualcuno sbaglia, e annuncia tra l'altro una manifestazione di solidarietà domenica. Che dice? Ma guardi, su questa vicenda dei consiglieri regionali, un po' in diverse realtà, danno il segno che a volte la politica non fa i conti né con le esigenze della collettività e quindi non è in linea con le esigenze dei cittadini, ma spesso va anche oltre se stessa, e quindi c'è questo atteggiamento eccessivo nell'utilizzo dei soldi pubblici. No, mi scusi De Girolamo, no, stavo parlando dei Serenissimi, dei secessionisti veneti e delle dichiarazioni di Salvini. Scusi, no, pensavo che si riferiva alla vicenda dei consiglieri regionali. Ah, no. Assolutamente. No. Milano e delle varie realtà dove purtroppo non si dà un bel esempio, sì, di politica e di rapporto con il territorio. Sul resto, guardi, io penso che la Lega sia in campagna elettorale su questo tema come altri. Non credo di dover dare un consiglio a Salvini su come si faccia la campagna elettorale, ma abbiamo visto anche ieri su altri temi in aula come alzano il tiro, come si sono posti sulla linea anti-europeista, anti-euro. Io direi solamente di fare i conti realmente con la realtà. Siamo anche punti critici con l'Europa, ma riteniamo che l'Europa sia un valore, soprattutto se si fortifica la nostra presenza in Europa, se si ha unità fiscale, unità di esercito, unità bancaria reale. Oggi purtroppo abbiamo solo unità della bandiera, così come quello della moneta, penso che dobbiamo fare uno sforzo superiore e quindi cedendo un po' di nostra cedendo nel voler formare un'Europa unita, un'Europa reale. Credo che Salvini alzi i toni, lo alzi su tutto, perché in questo momento rende in termini di sondaggio. Grazie Annunzia De Girolamo, capogruppo alla Camera del Nuovo Centrodestra. Buona giornata. Buona giornata. E saluto un altro parlamentare, che è Antonio De Poli, questore del Senato, dell'UDC. Buongiorno. Buongiorno a voi. E l'abbiamo voluta in onda per fare un po' di conti, in realtà, perché il ruolo di voi questori è anche questo. Poveri noi questori. Poveri voi questori, dovete fare i conti. Ci spiega quanto costa il Senato oggi e quanto si risparmierebbe con la riforma che andrà al vaglio del Parlamento? Certo, tanto il bilancio del Senato, che è quello che abbiamo tra l'altro approvato a fine dell'anno scorso, è un bilancio di 541 milioni di euro, comprensivo di tutte le spese e anche tutto l'aspetto relativo al fattore previdenziale, sia dei dipendenti che anche dei senatori. Sì. È una cosa diversa rispetto a tutti i bilanci anche dei comuni, delle regioni o del sì. qualsiasi ente o ditta anche privata, perché l'aspetto previdenziale non è in carico nel bilancio, ma vi sia all'esterno, perché è all'INPS o all'ente che... Senta, allora, mettiamo che si eliminino, perché l'ipotesi al momento pare solamente questa, si eliminino solamente i senatori, quindi arriva un nuovo Senato con gente che non riceve l'indennità. Quanto si risparmia? Perfetto, effettivamente? 541 milioni di euro, meno circa 70-80 milioni del costo dei senatori, che comprende non solo l'indennità ma anche i costi del trasporto, tutte queste cose. Quindi se da 541 diciamo che sono 80, andiamo a 460 milioni di euro. Quindi non è un granché come riduzione, De Poli? No, purtroppo no, anzi, se poi dobbiamo capire realmente cosa costano quelli che vengono dal territorio, allora forse ci sono ulteriori spese. Questo è l'aspetto fine a se stesso, nel senso via i senatori si risparmia questo. È chiaro che se si passa a un contesto diverso si deve rivedere tutta l'organizzazione del Senato in tutti i suoi aspetti, il personale e tutte le cose che ci vanno dietro, perché sennò chiaramente se riguarda solo strettamente l'aspetto del senatore in carica e quindi bisognerà licenziare. Bisogna fare una riforma che preveda uno spostamento del personale che c'è in altri enti e di conseguenza quindi invece di assumere in altre parti le persone chiaramente devono... E quindi non è che, anche là non è che si risparmia molto, perché li sposti, non puoi licenziarli. Difatti questa è la legge, lo sappiamo bene tutti com'è. Un'altra cosa che si invece, allora diciamo che il Senato serve abolirlo, nel senso serve elevare i senatori, perché significa che la riforma più importante non è l'aspetto strettamente economico, che anche se c'è, perché c'è realmente, ma è l'aspetto di avere una nuova struttura dello Stato italiano che abbia chiaramente una velocità migliore, quindi non più la fiducia nelle due camere, in un'unica camera, quindi un obiettivo più diretto, scelte più immediate, risposte ai cittadini altrettanto più veloci, meno burocrazia, eccetera. Allora è una riforma reale che serve per poter dare miglior risposta a uno Stato che oggi chiede, a delle persone che chiedono risposte più immediate, più veloci, senza burocrazia. Questo sicuramente è il primo aspetto. Oppure si dice che il Senato non serve più, il Senato si fa diventare un bel museo della Repubblica Italiana, allora si chiude tutto e non serve null'altro se non nelle visite delle scolaresche, allora chiaramente andiamo su un altro settore che cambia completamente la situazione, certo. Ed è realmente un risparmio che riguarda, calcoliamo che il personale, la spesa pensionistica del personale rimane, perché che sono 100 sui 120 milioni circa di euro, e questo rimane a prescindere, insomma, ma questo rimane anche in tutte le aziende, in qualsiasi parte, che oggi invece nel nostro bilancio è a nostro carico. Se non ci fossero le spese previdenziali, il bilancio passerebbe da 541 milioni di euro a 366 milioni di euro senza gli aspetti previdenziali, meno gli 80 andiamo a 200 e circa 80 milioni di euro, 80 che sono i senatori in carica, 280 milioni che è la spesa levata agli aspetti pensionistici, scusate, del Senato in tutte le sue, in tutte le sue organizzazioni. Le sue forme. Grazie ad Antonio De Poli, senatore e questore dell'UDC, buona giornata, e salve Sergio Vetrella, assessore dei trasporti della Campania, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ieri proprio a quest'ora abbiamo sentito il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, sullo stop alla metropolitana, cioè sono fermate le corse della famosa metropolitana di Salerno, ha lanciato delle accuse pesantissime nei confronti del vostro presidente Caldoro. Il presidente Caldoro ci ha detto: guardate, io a De Luca non voglio rispondere più, molto, molto semplicemente, e quindi andiamo con lei sull'aspetto più puramente tecnico, se vogliamo, del perché si è fermata questa metropolitana, perché De Luca dice: guardate, sono quelli della regione che non mi hanno dato i soldi. Ma guardi, a parte il tono utilizzato dal sindaco di Salerno, che è offensivo nei confronti dei cittadini che lui rappresenta, noi il problema che dobbiamo porre è perché allo stato attuale si è fermata la metropolitana, che poi, come ho sempre detto, non è una metropolitana ma è una ferrovia. Il problema sta proprio nella natura dell'opera. La natura dell'opera parte su una legge 211 del 1992 che qualsiasi cittadino può andare a vedere, perché io parlo in base agli atti e ai documenti e non con affermazioni generiche offendendo. La 211 parla di trasporto di massa in sede propria. Sede propria vuol dire che il sistema deve essere, essendo di massa, di carattere metropolitano, e proprio perché di carattere metropolitano e deve trasportare una massa notevole di utenti, si deve muovere su una sede propria, cioè autonoma. E non solo, la stessa legge dice che chi presenta la proposta come comune deve contemporaneamente presentare il piano economico finanziario, perché chiunque dà dei soldi a qualcheduno, ovviamente, se è una persona che ha la testa sulle spalle, gli chiede pure: sì, ma una volta che l'hai fatta, poi come la gestirai? Che facciamo, realizzare un palazzo e poi alla fine nel palazzo non sappiamo, potremmo pagare i costi per la manutenzione e per la pulizia? Lo Stato chiede, tu mi presenti un progetto, sei un comune che vuole realizzare una metropolitana, e quindi mi devi dire poi come la gestirai, se no io i soldi non te li do. Per giunta, la metropolitana è un discorso che si può dare a un comune, ma se diventa una ferrovia, le ferrovie in Italia le fa le ferrovie dello Stato attraverso le proprie aziende. Ma quindi, invece in questo caso il finanziamento è stato dato direttamente al comune. Mi scusi, Vetrella, quindi la colpa è del comune, dite voi? No, no, mi scusi, qua non è più un discorso. I cittadini vogliono sapere se noi questo servizio ferroviario lo faremo continuare a funzionare o meno. Allora, è molto chiaro, è chiaro negli atti, la regione tanto crede in questo trasporto di tipo metropolitano che, nonostante sia stata fatta una ferrovia, la vuole convertire in una metropolitana, e la può far continuare, perché stiamo parlando di 5,3 chilometri di trasporto su ferro, e però, 5 chilometri e però, già serviti su gomma. Mi scusi, soltanto per terminare, per dare il quadro. Ho capito, allora, però noi abbiamo tempi stretti, abbiamo tempi stretti, Vetrella. Prego. E dunque, la domanda io le rispondo. No. Prego. E dunque mi dica che cosa succede di questa benedetta metropolitana di Salerno? Succede che è stato firmato un accordo che è stato anche protocollato e registrato, nel quale, alla presenza del sindaco, del sindaco De Luca, che in quel momento era anche vice ministro dei trasporti, il Ministero dei Trasporti, la Regione Campania, il Comune di Salerno e RSI hanno firmato un accordo ufficialmente registrato, firmato anche dal Comune di Salerno, che diceva che si sarebbero dovuti trovare i soldi e che il governo doveva dare questi soldi per evitare che noi, per far funzionare questa ferrovia, andassimo a tagliare i servizi ad altri comuni che già stanno in una situazione drammatica. Okay. Possiamo togliere 3 milioni e mezzo di euro al comune di Avellino, alla provincia di Avellino Benevento. Benissimo, quindi perché i soldi, mi scusi Vetrella, per chiudere, e le prego in una parola, i soldi da dove devono arrivare per far funzionare questa metropolitana di Salerno? Dal governo, dallo Stato? Allo Stato attuale c'è un accordo firmato e registrato dalla Corte dei Conti che dice che questi soldi devono arrivare come addizionali dai fondi che noi già abbiamo e sono limitatissimi per offrire il servizio di trasporto a tutti i cittadini campani. Poiché c'è un accordo scritto, la Regione Campania continuerà a combattere per evitare questo danno ai cittadini campani, però nel contempo sta facendo tutto ciò che è necessario e sta operando di concerto con tutti gli altri per cercare di trovare una soluzione immediata a questa problematica. Grazie Vetrella, assessore dei trasporti della Campania. Pausa, poi la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 24 arrestati in una maxi operazione contro i secessionisti veneti. Salvini, una follia. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, nessun rinvio sul rispetto dei vincoli di bilancio. Le pensioni non si toccano, dice Padoan, gli 80 euro in busta paga arriveranno presto. 'Ndrangheta nelle Chese, in manette un consigliere comunale di un paese della provincia. Il momento della borsa. Borse in diretta. Giornata in calo, meno 0,6% il FTSE MIB, meno 0,61% il FTSE O'Share, mentre il resto d'Europa va un po' meglio, Parigi più 0,06%, Francoforte più 0,23%, Londra più 0,28%. Isabella Tasso, Radio Cori, sono 24 ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai andiamo in calo mentre il resto d'Europa sale? Ma le borse avevano aperto tutte bene, anche Piazza Affari, che poi ha però ripiegato appesantita da realizzi sul settore bancario che aveva fatto bene negli ultimi giorni. Prevale comunque in tutta Europa un atteggiamento cauto, questo in attesa di una fitta serie di dati americani nel pomeriggio e soprattutto della riunione della Banca Centrale Europea di domani. Gli analisti non si aspettano decisioni immediate sui tassi e misure di sostegno alla liquidità, ma sarà interessante verificare come il presidente Mario Draghi cercherà di indirizzare le attese dei mercati, questo per i prossimi mesi. Soprattutto visti gli ultimi dati sull'inflazione arrivati nei giorni scorsi, che fanno temere appunto una deflazione sperare in un intervento della BCE. Oggi siamo un po' stretti coi tempi, Isabella, quindi ti ringrazio e ti saluto. Buona giornata. Buona giornata. Sono Vittorio Billa, responsabile IT di Bianchi. Da oltre 120 anni fabbrichiamo biciclette. Con il nostro design tutto italiano e l'impiego di tecnologie innovative, siamo da sempre presenti nelle competizioni e sulle strade di tutto il mondo. Per rivivere l'emozione dei nostri grandi campioni, come Coppi e Pantani, saltate in sella una nostra bici. Ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Welcome Italia. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Non volare all'est per i tuoi denti low cost. Oggi l'odontoiatria italiana vince per qualità e prezzo. Amicodentista.com ti propone denti fissi in 24 ore a un prezzo mai visto. Per info, numero verde 800 088 315. Amicodentista.com. Centro Ribio 4, c'è stato un incidente. È stato Matteo a salvarmi. Tre vite, tre solitudini, un unico destino. Allora voglio rivederti. Te ne devi andare, se non ti vede succede un casino. Giorgio Pasotti, Nina Torresi, Gianfelice Imparato. Una volta solo, ma poi sparisco per sempre. Notte Tempo, un film di Francesco Prisco, dal 3 aprile al cinema. Infiniti è il nuovo volto delle prestazioni automobilistiche. Durante i nostri Infiniti Performance Days effettua una prova di guida della nuova Infiniti Q50, la berlina sportiva dalla tecnologia innovativa. Nuova Infiniti Q50 2002 diesel 170 cavalli, disponibile a partire da 36.100 euro. Per prenotare la tua prova di guida e scoprire il centro Infiniti a te più vicino, vai su www.infiniti.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ricominciamo di nuovo dall'operazione che ha portato agli arresti di 24 secessionisti veneti e ne parliamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, abbiamo visto Matteo Salvini dice che è una follia, annuncia una manifestazione di solidarietà domenica. Poco fa avevamo Nunzia Di Girolamo che dice, vabbè, insomma, la Lega in questo momento, campagna elettorale, alza i toni. Tu che dici? Ma io dico che Salvini sceglie una strada pericolosa, perché difendere un gruppo che palesemente si è distinto per una vocazione eversiva, poi deciderà la magistratura naturalmente, però evidentemente c'erano dei segnali piuttosto precisi, beh, è una strada rischiosa per uno il quale aveva dato l'impressione di voler imboccare una strada completamente diversa. Questa alleanza con Marine Le Pen in nome dell'ostilità all'euro è l'alleanza con un partito nazionalista, un partito fortemente centralista. Qui adesso invece si difende un piccolo gruppo di secessionisti che vogliono l'indipendenza del Veneto, e questo è molto curioso francamente, ma è una bella contraddizione. Naturalmente poi il problema del malessere che c'è in questa regione e che si è manifestato anche in quello pseudo referendum che abbiamo visto nei giorni scorsi, quello è un problema politico che pone delle questioni che devono essere anche affrontate e meditate politicamente, però mi sembra che la scelta di Salvini sia abbastanza rischiosa proprio per la prospettiva politica della Lega. Grazie, grazie anche per oggi al nostro Stefano Folli, buona giornata. Virginio Brivio, sindaco di Lecco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Con lei vogliamo parlare di un fatto di cronaca. Che cosa è successo? Che la Guardia di Finanza di Milano oggi ha arrestato 10 persone, nella vostra provincia in realtà, non riguarda strettamente la città, nell'ambito di un'inchiesta della DDA milanese, appunto contro la 'Ndrangheta in Lombardia. Perquisizioni, sequestri di beni per milioni di euro, arresti naturalmente, tra cui il fratello di un boss, poi il sindaco di Val Madrera, che è un centro del lecchese, e un consigliere comunale, che tra l'altro è un ex consigliere comunale anche di Lecco, che al telefono si definiva uno dei nuovi uomini dei Trovato. Con lei naturalmente non entriamo sull'inchiesta, perché insomma ne saprà quel che ne saprà. Quello che ci interessa capire è se ha avuto la percezione, visto che è stato anche presidente della provincia lei, che ci fosse questa penetrazione della criminalità organizzata, in particolare di quella calabrese, nella sua provincia e nella sua zona. Sì, una sola precisazione in premessa rispetto, perché vedo che anche le agenzie di stampa danno un'informazione sbagliata: il signor Ernesto Palermo è attualmente consigliere del comune di Lecco, non è mai stato né consigliere né assessore a Val Madrera, quindi l'unica sua carica quindi, è questa. Quindi è un consigliere comunale appunto, del suo comune. Ecco. Mentre dal punto di vista più generale, innanzitutto preciso che quello che so sono le notizie di stampa, e semplicemente stamattina ho incrociato ovviamente la Guardia di Finanza quando, accompagnando il consigliere Palermo nell'ufficio dei consiglieri comunali, dove c'è stata una sommaria perquisizione, ecco, mi hanno un po' accennato ovviamente all'operazione che era in corso. Diciamo che la cosa dal punto di vista degli amministratori coinvolti sicuramente mi lascia stupito, non lascia stupito invece il fatto che ci sia un tentativo di continuare a essere in qualche modo presente. Ricordo che peraltro lo stesso sindaco di Val Madrera, oltre che il sottoscritto, avevamo in tempi diversi fatto revoche di provvedimenti autorizzativi proprio su soggetti contigui alla malavita. Nel caso di Lecco si trattava di, in un caso, di un appalto di parcheggi, in due casi di pizzerie locali comunque di intrattenimento, mentre per Val Madrera riguardava appunto quella che è oggetto dell'indagine, vale a dire un'area a lago di svago estivo. Dico questo per dire i fatti più recenti degli sì. Senta sindaco, brevemente, perché siamo un po' stretti coi tempi, sì. oggi va così, ma lei ha mai avuto qualche sospetto su Palermo, sul consigliere comunale? No, per quanto riguarda il consigliere no, pur come dire, leggendo le prime dichiarazioni sembra che sia questo suo modo di fare, come dire, uno degli elementi più importanti che sarebbero a suffragio un po' dell'inchiesta da questo punto di vista. Questo non significa però che non ci sia stata invece una presenza ed un sospetto più complessivo su un tentativo di continuazione nella penetrazione, anche l'indagine sulla ditta Perego in Brianza, ma ribadisco anche dei fatti che sono accaduti in città, che ci hanno sempre visti però sul piano dell'intervento sia repressivo che preventivo, con i protocolli di legalità con la prefettura, molto attenti a questa dimensione. Grazie a Virginio Brivio, sindaco di Lecco. Allora, dei nostri appuntamenti, oggi e ci ritorneremo domani, non riusciamo a farvi sentire la cronaca dai campi profughi intorno alla Siria, ma certamente invece prosegue il nostro viaggio all'Aquila, dove domenica si ricordano i 5 anni dal sisma. L'Aquila non esisterebbe se non ci fosse il suo contesto. Guarda gru e operai finalmente in azione intorno alla Basilica delle Anime Sante, e poi Fabrizio Magani, direttore dei beni culturali dell'Abruzzo, torna alle sue carte, perché è lì, in quei numeri, la possibilità di restituire all'Aquila, sfregiata dal sisma di 5 anni fa, i suoi simboli d'arte, nei numeri che dicono che serve 500 milioni almeno per restaurare 485 monumenti in 9 anni, e con un'Italia in crisi e 24.000 persone ancora senza casa nella città terremotata, il rischio che qualche antico portone resti sbarrato per sempre esiste davvero. È per questo che, anche se ora partono i lavori del teatro e dentro l'anno la chiesa di San Filippo dovrebbe essere riaperta, la prudenza domina nelle valutazioni del direttore. Speriamo che sia possibile in futuro occuparci dei quasi 500 cantieri, condizionato chiaramente alla disponibilità delle risorse. Allo stato attuale non si può assicurare che per tutti quanti i beni sarà avviato un percorso di restauro. La nostra capacità di intervenire si basa su una concreta programmazione delle risorse, ma anche della tempistica. Ai primi 70 milioni della delibera CIPE si aggiungono i 27 raccolti con le donazioni, compresi i 16 milioni e 950 mila di 5 paesi stranieri, con Russia, Francia e Germania in testa. Nulla invece è mai arrivato dagli Stati Uniti, nonostante le promesse nei giorni del G8 di Obama e consorte. Ridare all'Aquila i suoi luoghi simbolo è però l'unica strada per ricostruire anche la vita sociale della comunità, da 5 anni disintegrata come i muri dei suoi palazzi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, L'Aquila. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Good evening everyone. The law of gravity hit Wall Street today and financial markets around the world for that matter. Avete sentito la voce allarmata del newscaster? Era il lunedì 19 ottobre del 1987 quando ci fu il grande crollo di Wall Street. La borsa in un sol giorno perse il 20%. Beh, c'erano delle notizie destabilizzanti dal punto di vista geopolitico, l'Iran che aveva attaccato delle navi americane, ma soprattutto quello che è successo quel giorno è che i cosiddetti ordini automatici di acquisto e di vendita, ordini computerizzati, sono impazziti, perché si sono superate determinate soglie in cui gli ordini automatici partivano e si è creato un effetto a spirale che ha poi provocato questo crollo. Era il 1987. Oggi la situazione, invece di essere migliorata, invece di essere più tranquilli, invece di aver imparato come possiamo dominare da esseri umani il mezzo elettronico, la realtà è che siamo ancora più schiavi del mezzo elettronico nella gestione di ordini di acquisti e di vendite, al punto tale che è in corso una vera e propria manipolazione dei mercati, con tanto di inchiesta dell'FBI che ormai da un anno sta seguendo questa pista, e con l'uscita di un nuovo libro di Michael Lewis, autore per esempio di Liar's Poker. Il nuovo libro si chiama Flash Boys ed è proprio sui problemi alla trasparenza del mercato che derivano dalle attività di questi traders. Means they're able to identify your desire to buy shares in Microsoft and buy them in front of you and sell them back to you at a higher price. Michael Lewis, eccolo Michael Lewis, intervistato da Steve Cross su 60 Minutes. Devo dire, il suo libro, appunto, Flash Boys, è diventato non solo un bestseller, ma ne stanno parlando un po' tutti.